Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone sulle frequenze di Radio Contrabanda a Barcellona. Sentitevi questo brano, capirete di cosa parliamo quest'oggi. L'unica lama che io amo è il Dalai, lo sai, fanno tabula rasa per la nuova Dubai. Io odio la violenza, le divise, le pistole e la guerra come mezzo per risolvere le cose. Alla manifestazione io ti porto con me, anche se ora non ti vedo, so che urli con me. La mia città lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare. Non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più. Eh beh, un brano molto breve per cominciare, ma molto diretto, e che immagino abbia, no, trasmesso qual è il tema della puntata dello Zibaldone di quest'oggi. Però do subito il bentornato e il buon pomeriggio al nostro economico Banzo. Banzo, come va? E soprattutto lascio a te gli oneri di spiegare al nostro pubblico di cosa parleremo quest'oggi. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. È presto detto, il brano, come dicevi tu, è molto trasparente, si intitola Free Gaza, lui è il Piot e la puntata si intitola Free Palestine. Più chiari di così non potremmo essere. Non si può. E non c'è neanche bisogno, credo Steven, di spiegare il contesto, perché è semplicemente, noi siamo un piccolo programma di radio e questo è probabilmente l'evento, la situazione che sta definendo questo periodo storico più di ogni altro, quindi diciamo che non c'è bisogno di introdurre lungamente la tematica, probabilmente solo dire una cosa, che era da tempo che volevamo fare una puntata sulla Palestina, sul genocidio che sta avvenendo a Gaza, però per una ragione o per l'altra abbiamo sempre posticipato per aspettare un momento magari più adeguato, per capire se potevamo magari intervistare qualcuno della flottiglia in queste ultime settimane. Ecco, insomma, ora però non potevamo più posticipare questa puntata e quindi eccola qui, no? Banzo, per parlare di questo brano, io comincerei da lì, no? Perché è un brano brevissimo, che è stato pubblicato da Piotta sui social. Sì, perché una caratteristica che contraddistinguerà la scaletta musicale di oggi è che molti brani sono instant in un certo senso, non quello più deteriore del termine, però sono brani che sono nati e diffusi soprattutto sui social, quindi fuori dalle discografie ufficiali, come risposta artistica alla situazione che si sta definendo ormai da 2 anni a Gaza. E quindi sì, vediamo la risposta più classica di un artista, che è scrivere un brano sul tema del momento, sul tema che lo ispira, e in questo caso Piotta ha voluto fare un richiamo alla partecipazione alle ultime manifestazioni che sono state moltitudinarie, ce ne sono state in molte città italiane, ci sono state qua in Spagna, Barcellona, eccetera. E quindi quella di Piotta è una chiamata a manifestare con un campionamento di Piero Ciampi, quello che sentite all'inizio, la voce distorta che dice non c'è più l'America, è Piero Ciampi, quindi grandissimo Piotta, è una tempolinea straordinaria nella quale lo stesso artista vende Super Caffone al campionato di calcio giapponese e scrive brani per la libertà dei palestinesi. Grande Piotta. Gli ospiti di questa puntata saranno due. Avremo innanzitutto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Con lui parleremo della situazione a Gaza, della missione della flottiglia, di quello che è successo appunto nelle carceri israeliane ai membri della flottiglia e di quello che sta facendo Amnesty. E poi parleremo con Gianluca Costantini, artista attivista geniale, attivo sul tema dei diritti umani da tempo.

Riccardo, a 2 anni dagli attacchi di Hamas e poi appunto l'inizio della guerra, dei bombardamenti, dei massacri che stiamo vedendo a Gaza da parte dell'esercito israeliano, è venuto il momento, credo, di fare il punto, no? Lo si sta facendo molto in questo periodo, però credo, insomma, la tua voce è una voce importante, perché Amnesty, nel caso palestinese, ma in tanti altri in tutto il mondo, segue quello che sta succedendo e gli orrori che si stanno commettendo. Sì, il vocabolario delle emozioni ormai non trovo più le parole. Quello del diritto internazionale sì, perché quello che Amnesty International e anche le ONG per i diritti umani israeliane sostengono è che Israele sta commettendo un genocidio nei confronti della popolazione palestinese della striscia di Gaza. C'è anche un esame da parte della Corte Internazionale di Giustizia su un ricorso presentato da Sudafrica contro Israele. Vanno avanti i bombardamenti, i trasferimenti forzati, l'occupazione di Gaza City ormai è una realtà. Qualunque prospettiva di pace, comprese quelle di cui si parla in questi giorni, ammesso che arrivi a una qualche soluzione, saranno soluzioni di breve periodo, perché non si sta parlando dei diritti delle persone palestinesi, della necessità di avere giustizia. Quindi la situazione è catastrofica, c'è una carestia del tutto provocata da Israele nell'ambito della sua campagna genocida. L'intenzione di molti governi è di fermare la solidarietà piuttosto che fermare il genocidio, e siamo arrivati così a 2 anni e ormai 3 giorni dall'inizio di tutto. Giusto per dare qualche dato, sicuramente molti ascoltatori li hanno già ascoltati o letti in queste ultime settimane, ma insomma le stime ufficiali parlano di quasi ormai 70.000 morti accertati solo a Gaza. Bisognerebbe aggiungere, si parla di 200.000 persone ferite o mutilate, tra queste ci sono più di 18.000 bambini, minorenni. Parliamo poi di quasi 1 migliaio di persone assassinate nel frattempo in Cisgiordania da parte dei coloni o dell'esercito israeliano. Voglio dire, siamo davanti a una catastrofe assolutamente in cui i termini e gli aggettivi sono veramente difficili da trovare. E in tutto questo, tra l'altro, tu lo dicevi, Gaza è completamente stata rasa al suolo. Già quest'estate si parlava di quasi l'80% degli edifici e le infrastrutture di Gaza completamente distrutte. Sì, questa percentuale nel frattempo è aumentata, perché siamo arrivati all'87%, la fonte non è Hamas, sono le Nazioni Unite, e così come quasi la totalità del terreno fertile è stata distrutta, e questo scientificamente da Israele per creare una cosiddetta zona cuscinetto alla frontiera orientale di Gaza col sud di Israele. Sui numeri delle persone uccise da Israele nel corso dei suoi bombardamenti, sai, noi abbiamo dei numeri, ma ci sono decine di migliaia di persone irrintracciabili perché sono sotto le macerie. Ci sono enormi numeri tra i feriti che non sopravviveranno. C'è una situazione catastrofica per quanto riguarda gruppi vulnerabili, penso ai bambini, penso alle persone anziane, alle persone con disabilità, alle neomamme, alle donne incinta, in totale assenza di qualunque servizio sanitario e dei costi proibitivi del trasporto, perché Israele ordina di evacuare, e poi, come succede sempre in questi casi, ahimè anche questa volta, c'è chi specula chiedendo 1.000 euro per una tenda o 2.000-3.000 euro per un trasporto a cavallo di un asino. Ascolta, voi con Amnesty, al di là delle informazioni che arrivano dai pochi ormai giornalisti ancora attivi all'interno di Gaza, quelli che tra l'altro sono sopravvissuti perché ne sono stati uccisi tantissimi, e al di là di quello che attraverso, no, le Nazioni Unite arriva, voi con Amnesty avete qualcuno sul posto? Riuscite ad avere delle informazioni precise anche in questi ultimi mesi? Amnesty International non può entrare nel territorio palestinese occupato su ordine di Israele ormai da molti anni. La ricerca la facciamo attraverso ricercatori e ricercatrici indipendenti, di cui valutiamo 10 volte più del solito la totale imparzialità. dato il contesto in cui si trovano a operare, dato che quello è un territorio controllato militarmente da Israele, ma sul quale Hamas ha una certa influenza, almeno dal punto di vista della narrazione locale. Quello che non riusciamo a fare da terra lo facciamo dal satellite, a volte vedere dall'alto è meglio che vedere dal basso, e dall'alto, confrontando le immagini anche dello stesso luogo da una settimana all'altra, penso ai terreni coltivabili, penso alla struttura urbanistica di alcune città, penso ai luoghi designati da Israele come sicuri, ci accorgiamo delle differenze, ci accorgiamo del genocidio che va avanti. Ascolta, questo 10 ottobre è la giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte e proprio in queste settimane si sta dibattendo nel Parlamento israeliano una proposta che ha a che fare con la possibilità di ampliare la pena di morte che esiste per alcune situazioni specifiche in Israele, come in un contesto di guerra, per i reati di terrorismo palestinese. Ecco, un tuo commento al riguardo. Sì, questa proposta è stata approvata dall'equivalente della Commissione Giustizia di un paese europeo, lì ha un altro nome, ma insomma il senso è quello. Ha bisogno di 3 voti nel Parlamento israeliano, c'è una maggioranza che la sostiene, c'è addirittura un ministro che pensa che mettendo a morte i virgolette terroristi, chiuse virgolette, palestinesi, si libereranno più facilmente gli ostaggi. E a essere contrari sono esattamente i familiari degli ostaggi, perché dicono che anche questa manovra, che è politica e non militare, a differenza delle altre, complicherà ulteriormente la situazione. E noi abbiamo detto semplicemente che in circostanze nelle quali degli stati si sono trovati a fronteggiare una situazione molto molto complicata, tipo l'Algeria degli anni 90 per intenderci, con i 200.000 morti, a nessuno è venuto in mente di applicare la pena di morte, perché avrebbe creato un effetto emulativo, cioè martiri su martiri disposti ad andare in paradiso impiccati o fucilati da un governo nemico per loro, e quindi non avrebbe migliorato, lì non l'avrebbe migliorata e tantomeno in Israele la migliorerà. Fammi aggiungere solo che la definizione di terrorismo secondo la normativa israeliana è del tutto vaga e generica, rischia di colpire anche persone che, anziché certo, farsi esplodere su un autobus, esprimono le proprie opinioni. Drammatico. Riccardo, abbiamo visto però nelle ultime settimane una mobilitazione in Italia, in Spagna, in Italia specialmente, non si vedeva da anni, attorno a quello che è stata la missione della flottiglia per Gaza. Mi piacerebbe vedere anche sentire la voce di Amnesty su questo momento, sulle reazioni che ci sono state, e tra l'altro anche tenendo in conto appunto quello che fate con Amnesty, i racconti che vari membri della flottiglia hanno fatto al loro rientro in Italia, in Spagna e in altri paesi, di come sono stati trattati. Ma allora, la flottiglia è una manifestazione di solidarietà nel rispetto delle norme internazionali e del principio dell'aiuto umanitario. Quindi è un'azione del tutto lecita per portare aiuti a una popolazione affamata appositamente da Israele. L'illegale c'è l'azione compiuta dalle autorità israeliane, che hanno fermato in acque internazionali più volte, perché l'ultima risale all'8 di ottobre, navi contenenti degli aiuti umanitari, tra cui cibo e medicinali. E persino se queste imbarcazioni fossero entrate nelle cosiddette acque territoriali, è discutibile che quelle siano acque territoriali israeliane, perché se la striscia di Gaza è occupata, allora anche le acque sono occupate, e se sono occupate, questa è una cosa illegale. Detto questo, le testimonianze sulle umiliazioni subite dalle persone illegalmente arrestate e trattenute in alcuni casi per diversi giorni nelle prigioni israeliane sono la prova che c'è una narrazione stigmatizzante da parte delle autorità israeliane verso quella che ha chiamato la Hamas Global Sumud Flottiglia. C'è un ministro israeliano che è entrato nella prigione schernendo e deridendo le persone arrestate e dicendo che si trattava di terroristi, e la conseguenza sono stati trattamenti umilianti che sono stati loro inferti, soprattutto le persone che nonostante fossero detenute in ginocchio, senza cibo, senza acqua, continuano a gridare slogan in solidarietà con la popolazione palestinese. Amnesty International ha da subito chiesto un'indagine internazionale, non si fida delle indagini interne delle autorità israeliane, della direzione delle prigioni. Ci sono indagini che sono avviate dalle procure nazionali, tra cui quella italiana, ci sono denunce presentate a tribunali nazionali, tra cui quelli italiani, è bene che vadano avanti. A questo proposito, la Corte Penale Internazionale, come sappiamo, da molti mesi ormai insomma, sta indagando, no, sul comportamento del governo israeliano e soprattutto di Netanyahu o dell'ex ministro Gallant. Ecco, se ne è parlato molto, ci sono state posizioni molto diverse anche da parte di governi europei, penso a quello tedesco ma non solo. Che possibilità ci sono dal tuo, dal vostro punto di vista riguardo a questa questione? Come potrebbe avanzare? Secondo te tutto si finirà in un cassetto? Ci sono margini affinché insomma, si possa fare giustizia al riguardo? Ma, le prospettive di un avanzamento, di un raggiungimento della giustizia ci sarebbero se gli stati rispettassero il loro obbligo di collaborare con la Corte Penale Internazionale, e cioè ogni volta che Netanyahu o Gallant, e non parlo dei tre di Hamas per i quali era stato spiccato analogamente un mandato di cattura perché Israele li ha assassinati, riguardo ai due israeliani ricercati e latitanti, qualora si trovassero nel territorio o nello spazio aereo di uno Stato membro dello Statuto della Corte di Roma, dovrebbero essere arrestati. In questi mesi la Corte ha avviato il processo per l'ex presidente delle Filippine, ha emesso mandati di cattura per il capo dei talebani in Afghanistan e per il suo capo del potere giudiziario. Il 7 ottobre ha condannato uno dei capi dei paramilitari che fecero massacri e forse anche un genocidio in Darfur, Sudan, all'inizio di questo secolo. E c'è chi ha applaudito, chi ha pensato che non fosse rilevante. Quindi l'efficacia della giustizia internazionale dipende dalla volontà degli stati e basta, questo è quello che va sottolineato. Una domanda difficile, a cui è difficile immagino dare una risposta, ma tenendo conto di tutto questo, di tutto quello che ci siamo raccontati, di tutto quello che sappiamo in questi due anni sulla tragica situazione che si sta vivendo a Gaza, come cittadini cosa si può fare per cercare di modificare per esempio la posizione di alcuni governi, perché questo ovviamente, come tu ci stavi spiegando anche riguardo alla CPI, è chiave. Quali sono i suggerimenti che date anche da Amnesty e tra l'altro che cosa state portando avanti o cosa avete in programma con Amnesty nei prossimi mesi? Noi continuiamo a presentare il rapporto sul genocidio israeliano nella striscia di Gaza, lo faremo tra l'altro in un momento importante, tra due giorni, cioè la vigilia, all'antivigilia meglio, della partita tra Israele e la nazionale di calcio di uno stato genocida, quindi Italia-Israele. Stiamo continuando a chiedere alle autorità italiane di non rendersi complici di genocidio, continuando a inviare armi, e sono state inviate fino a maggio 2025. La fonte è l'Istat, non Amnesty o altri soggetti, diciamo, non governativi o non ufficiali. E alle persone noi stiamo supplicando che, nel caso avessero sfiducia verso le istituzioni, e ne hanno ben d'onde, penso a un'altra cosa che Amnesty sta sollecitando all'Italia: porre fine a questo accordo di collaborazione, di associazione tra Unione Europea e Israele, perché all'articolo 2 si parla di diritti umani e stride un po' il fatto che ci sia un accordo in corso con uno Stato genocida. Alle persone diciamo, qualora abbiate sfiducia verso le istituzioni, non fatela diventare sfiducia verso voi stesse, perché questo è il gioco in cui si rischia di cadere. E le risposte nelle capitali europee sono meravigliose, e non solo nelle capitali europee, e quindi di continuare a fare così e anche di comportarsi e fare delle scelte coerenti. Penso ad esempio a una cosa che facciamo tutte e tutti noi, no? Fare delle prenotazioni online nel campo del turismo. Bene, le principali agenzie di turismo online sono coinvolte nella vendita di pacchetti turistici che spacciano per viaggi in Israele, ma sono viaggi nei territori palestinesi occupati, cioè in Cisgiordania. Cominciamo a cambiare questa attitudine, e ci sono tanti altri esempi di attitudini che possono essere cambiate. Sì, sì, questo è fondamentale. Prima di salutarci, un'ultima cosa, Riccardo, che ha a che fare con il Club Tenco. Con Amnesty continua la collaborazione riguardo al premio Yoruma, questo premio istituito nel 2020 che premia artisti e dà visibilità ad artisti che mettono a rischio la loro stessa vita per difendere la libertà e i diritti umani. Sono stati premiati negli anni scorsi il rocker egiziano Rami Esami, il rapper ungherese Aaron Molnar. L'anno scorso una decisione importante presa a distanza per un rapper iraniano, Tumaj Saleh, che era in quel momento condannato a morte in attesa di sentenza, finalmente poi annullata, anche se la sua situazione continua ad essere molto, molto critica per le notizie che arrivano. Bene, in questo 2025 gli occhi sono ovviamente su Gaza, sulla Palestina, e si è deciso appunto di consegnare il premio postumo, purtroppo, a uno scrittore, professore, poeta palestinese che è Refat Al-Harer. È una decisione importantissima, perché è facile premiare vincenti, magari in presenza, e fare una bella serata. Un premio all'assente e al perdente è una scelta nobile, coraggiosa, e poi perdente, certo, ha perso la vita, ma per le persone palestinesi il tempo è un tempo collettivo, non è il tempo delle singole persone che hanno una data di nascita e una data di morte, in questo caso di uccisione. E quella poesia, Se dovessi morire, che ha scritto Al-Harer, è entrata nella storia, viene recitata, cantata, musicata in tanti luoghi, e il luogo più importante in cui ciò verrà fatto è esattamente il premio Tenco. Quindi complimenti a noi fondamentalmente, perché insomma ogni tanto prendiamoci anche il merito di avere qualche buona idea. Sì, Refat Al-Harer sarà premiato al Tenco in maniera postuma, l'autore di If I Must Die, no? Se dovessi morire, una poesia che appunto tra l'altro si sta traducendo in tantissime lingue, ci sono progetti molto belli in lingue di tutto il mondo, e in Italia tra l'altro è stata tradotta da Nabil Bey insieme alle poesie di altri di varie decine di poeti palestinesi. Sono 32 poesie in tutto, un libro uscito questa primavera per Fazzi Editori, che consigliamo, no? Consiglio di leggere ai nostri ascoltatori, perché ci mostra, no, la poesia in quella che è stata per molti anni e continua ad essere, in mezzo a un genocidio, la più grande prigione a cielo aperto del mondo, appunto la striscia di Gaza, quella che è la voce di poeti che non hanno smesso di comunicare con la poesia, con la letteratura, e trasformare la narrazione, come diceva Edward Said, in uno strumento di resistenza. Ecco, insomma, nel nostro piccolo è un messaggio, io credo, importante, e sarà tra pochi giorni, il 25 ottobre, a Sanremo, al Teatro Ariston, per il Premio Tenco 2025. Riccardo, grazie davvero di essere tornato con noi, e mi auguro che ci si risenta presto e magari con delle notizie, una situazione a livello globale un po' migliore. Incrociamo le dita. È davvero, è un auspicio che dobbiamo tenere forte e saldo. Grazie. Zibaldone. Radio Contrabanda. Abbiamo con noi Gianluca Costantini, artista, attivista, attivo da tanti anni con tantissimi progetti, insomma, dalle vignette sul Manifesto ai progetti insieme a Amnesty International, ma insomma sarebbe impossibile, Gianluca, riassumere anche brevemente le tante cose che hai fatto. Forse molti ricorderanno l'immagine iconica di Patrick Zaki, di cui tu sei stato l'autore, no? E i diritti umani sono uno dei focus importanti di tutta la tua produzione, dei tuoi progetti in Italia e in giro per il mondo. Quindi innanzitutto, Gianluca, buon pomeriggio e benvenuto a Zibaldone. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci accompagni in questa puntata dedicata a Gaza, perché anche Gaza è stata al centro dei tuoi progetti, e soprattutto di un progetto recente che tra l'altro si potrà vedere nelle giornate del premio Tenco a Sanremo tra il 22 e il 25 ottobre, no, di quest'anno, nel Mirino della Memoria, ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina. Ecco, è una mostra che è già stata esposta in diverse città, e raccontaci un po' come nasce, perché ne parlavamo anche con Riccardo Nuri, e i giornalisti uccisi in Palestina e soprattutto a Gaza in questi ultimi due anni sono un numero inimmaginabile. Sì, io ho iniziato a seguire molto l'attività dei giornalisti proprio dentro l'ambito dei diritti umani, perché credo che il diritto di espressione, ma anche il diritto di divulgazione del lavoro dei giornalisti, rientra in questo mondo. Quindi avevo già fatto dei lavori più piccoli su casi singoli, oppure avevo fatto un lavoro più corposo, per esempio sui giornalisti uccisi nella guerra tra l'Ucraina e la Russia, però i numeri erano sempre molto più piccoli. Poi dal 7 ottobre del 2023 subito sono stati uccisi molti giornalisti, quasi tutti palestinesi, c'erano anche qualche libanese e qualche israeliano nella prima giornata, ma erano... come si dice, vittime collaterali, diciamo, non erano lì per lavoro, ma erano, che ne so, uno era nella festa, uno era in un kibbutz e via dicendo. Quindi io collaboro da tanti anni con il CPJ, che è una delle organizzazioni più importanti al mondo, che lavora sulla protezione dei giornalisti nel mondo, e con loro ho lavorato spesso, e lì da 7 ottobre abbiamo iniziato a fare i ritratti, ma anche mettere i loro testi vicino ai ritratti. E quindi io disegnavo solo i giornalisti di cui il comitato mi dava il via, mi diceva: sono stati uccisi in questa maniera, erano veramente dei giornalisti, erano in quel posto, c'era testimonianze, quindi giornalisti certificati. Ai giorni nostri questi giornalisti sono 186 quelli certificati dal CPJ, e purtroppo in questi due anni li ho disegnati un po' alla volta, giorno per giorno, tutti. E, tra l'altro, questi ritratti sono anche stati, oltre che esposti, no? Nel progetto che tu hai sviluppato e stai ampliando, perché purtroppo il numero dei giornalisti uccisi, come tu ci stai raccontando, aumenta, ma sono stati anche utilizzati in azioni di protesta, è vero, in diverse città? Sì, all'inizio, ancora prima delle mostre, sono subito stati utilizzati in con le proteste, soprattutto negli Stati Uniti, in cui si chiedeva di proteggere i giornalisti. E quindi le persone li hanno stampati e li portavano alle manifestazioni, oppure li attaccavano in giro per la città. Quello che si fa solitamente anche con i miei disegni in generale, vengono sempre presi, estrapolati dalla internet e messi nella realtà vera e propria. Quindi ci sono state a New York, Atlanta, poi a Seattle, poi in Italia a Napoli, a Bruxelles, Berlino, in tante città ogni tanto compaiono questi disegni durante le manifestazioni, le proteste, o anche semplicemente momenti in cui si ricordano i giornalisti, quindi quasi dei momenti di silenzio in alcuni parchi, per esempio di Atlanta è stato fatto spesso, che è quasi una preghiera che viene fatta per loro. Dopo, successivamente, i disegni aumentavano e abbiamo incominciato a organizzare questa mostra, che all'inizio conteneva una cinquantina di ritratti, e che sono stati esposti in musei o gallerie d'arte o in spazi più sociali, centri sociali o anche piccole case di ritrovo dove si ritrovano le persone. E per quanto riguarda Sanremo, già che ci siamo nel mirino della memoria, si inaugurerà mercoledì 22 ottobre alle 17 in via Palma 16, e quindi insomma trovate informazioni sulla pagina web del premio Tenco. Questo Tenco 2025 si tiene dal 22 al 25 ottobre. Gianluca, il tuo legame, appunto, ne accennavamo, con i diritti umani è ormai insomma datato. Nel 2023, tra l'altro, hai pubblicato il libro per il 60° anniversario di Amnesty, intitolato Human Rights Portraits, no? Sì, esatto. Sì, ho iniziato a collaborare con Amnesty verso il 2019-20, perché a un certo punto loro mi hanno dato un premio anche, un premio di diritti umani, arte e diritti umani, e da lì in poi abbiamo visto che abbiamo sempre lavorato sugli stessi temi, abbiamo iniziato a collaborare molto più insieme con Riccardo Nuri e altri attivisti di Amnesty Nazionale. E poi dopo c'è stato il caso Patrick Zaki, che ci ha tenuto uniti per più di 2 anni quasi in attività, perché il disegno era diventato talmente importante e virale che veniva usato in tutte le manifestazioni di Patrick al suo posto, diciamo, sostituiva il Patrick in prigione. E quindi da lì si è instaurato ancora più rapporto, e quando è arrivato il 60° abbiamo deciso di fare questo libro, dove ci sono 60 ritratti di 60 casi, uno per ogni anno della vita di Amnesty, 60 casi che sono finiti in maniera positiva: o la persona è stata liberata, o ha vinto una causa molto importante, o ha vinto il premio Nobel per i diritti. E quindi è un libro dei bei risultati di Amnesty in tutti questi anni. Assolutamente sì. Ascolta, tu hai seguito con i tuoi disegni tantissimi avvenimenti politici, sempre con questo sguardo attento ai diritti umani, no? Penso alla primavera araba nel 2011, ma anche Hong Kong, no? Più recentemente nel 19-20, e anche le proteste che ci sono state in Turchia, no? Occupy Gezi nel 2013, che tra l'altro ti hanno costato anche, insomma, hai avuto delle conseguenze, no? Un'accusa di terrorismo da parte del governo di Erdogan. Sì, nel 2016, dopo il fallito colpo di Stato, ci fu una grande vendetta del governo con chi aveva cercato di fare l'attentato, e quindi io disegnai sulle attività che il governo faceva sul suo popolo, diciamo. Però anche prima io avevo lavorato molto sulle altre e comunità turche, quindi i curdi, gli armeni e altri, e poi avevo collaborato attivamente con questa manifestazione che si chiamava Occupy Gezi. Quindi quando arrivò quel momento, il colpo di Stato, tutti i diritti vengono un po' cancellati, il governo può processare, accusare velocemente le persone, e io venni processato in contumacia e condannato a terrorista, che è un po' strano, no? Per un disegnatore essere condannati per essere dei terroristi. Però dal 2016 io, che ero poi anche un abitué di quel paese, per quello che avevo disegnato così tanto, perché è un paese a cui tengo molto, mi è stato vietato di andarci, quindi è stata un po' una censura all'interno del paese. Poi ho continuato a lavorare sulla Turchia, naturalmente, comunque. Però è stato un caso molto particolare di un artista che viene accusato di una cosa assurda, come essere un terrorista perché disegna. Ascolta, prima di salutarci, Gianluca, so che hai tantissimi progetti in ballo, ne hai fatti tantissimi negli ultimi anni, insomma invito anche i nostri ascoltatori ad andare un po' a vedere quello che hai fatto e quello che stai facendo. Ecco, oltre alla mostra di cui abbiamo parlato più approfonditamente oggi, no? Nel mirino della memoria sui giornalisti palestinesi uccisi, che altri progetti hai in ballo adesso, se ce lo puoi raccontare? Sì, intanto io faccio anche libri, proprio libri a fumetti. Graphic novel, diciamo, no? Graphic novel, che però sono quasi sempre libri di giornalismo a fumetti. E adesso uscirà in Francia tra un mese la biografia su Zelensky, che ho fatto fatto, che racconta tutta la vita del presidente ucraino, dalla sua nascita quando è diventato presidente, poi dalla guerra, nella guerra, quindi un libro quasi di formazione di una persona, prima attore, comico, uomo di spettacolo, che poi è diventato uno dei personaggi più famosi nel mondo in questo, per causa del conflitto, certo, che c'è in atto. E poi in queste le prossime settimane uscirà una ristampa di un mio libro, che è un libro su Pasolini. È un libro che racconta il Pasolini prima di diventare Pasolini, quindi tutta la sua infanzia e la sua come si è formato nella scuola, nell'università, nei viaggi, ed è un libro che esce per Altra Economia, che è una casa editrice di Milano. Fantastico. Poi, già che citi Pasolini, per chi magari avesse voglia di andare a cercarsi i tuoi libri anche degli anni scorsi, insomma, ricordo anche la figura di Gramsci, no? Cena con Gramsci, Arrivederci, sì, Berlinguer, sì, sì. Pertini fra le nuvole, ma anche, anche Julian Assange, no? Dall'etica, sì, hacker a Wikileaks. No. Esatto. Fantastico. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi. In bocca al lupo per tutti i tuoi tantissimi progetti e adelante sempre, perché è fondamentale avere degli artisti attivisti come te che ci illuminano, no? E ci mostrano quello che sta succedendo nel mondo. Grazie a tutti. لازني صرت نعشق شريك الهوى صعيب يا أحبابي والقلب على نار على نار على نار سلمى وتسلم سلموا لي عليها نحلف يا أخواني أنا ما ننسيها ونموت عليها حبها جواني مجروح نعاني سلمى وتعيش البعض صعيب عليا توعد وما تجيش نيران الحب قوية طالت الأبعاد طالت الأيام نعتق عينيها شيني جدام وهالشي مقدر وينك يا سلمى القلب مكسر ولا جاني خبر يا ظلمة ألم ونصبر في منام نلاقيها عيونك يا مرادي سحروني وحرقوني وكثر جنوني ليعوني ضيعوني متعذب ناسك حقروني I'm L'Italia è il primo paese al mondo ad avere una legge che riconosce la difesa del pianeta come malattia. Crosetto non esclude nuovi possibili shock per creare posti di lavoro. Disagi in provincia di Lecco. Governo israeliano diviso fra inquinamento, deforestazione e l'inferno. Nella linea di evoluzione dell'offerta per Gaza, un cittadino esasperato dalla velocità delle auto ha rubato la statua di Papa Wojtyla a Termini, rivelatasi poi quella di Renato Zero. Meloni, così si mette a rischio l'accordo di Trump. Hamas prende tempo e chiede la presidenza dell'INPS. Putin dopo gli sconfinamenti dei droni, impossibile credere che vogliamo attaccare la Russia. Poi lusinga Babbo Natale, con lui al potere la guerra in Ucraina poteva essere nel casertano. Il CT Gattuso ha diramato le convocazioni delle 27 giovanissime guardie svizzere che regaleranno incredibili performance per conquistare dal di là. Tajani, così si mette a rischio il ritiro dell'esercito israeliano dal Vaticano. Netta vittoria del centrodestra in Calabria. L'ex Terminator di Lamezia Terme vince senza ballottaggio, lanciando un grande masso sui binari del treno e sulla statale. Salvini, è il momento della responsabilità, dei favori e della laurea in medicina in tempi rapidissimi. E avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, un commento telegrafico su questa visione a volo d'uccello di quello che succede in questo mondo sempre più difficile da comprendere. Mi ha stupito, Steven, questa cosa della statua rubata a Termini, che doveva essere dedicata originariamente a Papa Wojtyła, invece era dedicata a Renato Zero. Beh, diciamo che non ci siamo mossi da Roma, grandi personaggi romani, e credo che anche tu preferisca Renato Zero, perché certo, sì, non ha mai appoggiato nessuna dittatura di destra in America Latina, questo sicuramente. Però, se mi permetti, c'è anche un'altra notizia interessante. Vediamo un Gattuso su più fronti, perché oltre ad essere CT della nazionale è anche CT di questa selezione di giovanissime, non so quanti anni abbiano, guardie svizzere, che cercano di conquistare l'aldilà. E non so come verremo a sapere i risultati, forse, non lo so, non c'è modo di collegarsi con l'aldilà e dovremmo ricorrere alla radiolina come ai vecchi tempi. Niente collegamento video, voglio dire. È un po' una scena da Young Pope di Paolo Sorrentino, direi, insomma, la butto lì. Banzo, però prima ci siamo ascoltati un bellissimo brano che ci arriva da Napoli, però che in realtà spazia nel Mediterraneo. Bassolino e Marzouk Meiri, Baidalik, uscita a fine agosto anche di quest'anno, un brano che appunto mette in contatto le diverse sponde del Mediterraneo, perché appunto Dario Bassolino, che avevamo già presentato agli ascoltatori di Zibaldone con il suo album Città Futura, è napoletano, ma collaborano anche il cantante percussionista tunisino Marzouk Meiri e il compositore e produttore libanese Cherif Magarbane. Sì, quindi non è solo Napoli, ma ci sono anche Tunisi e Beirut, quindi una triangolazione mediterranea, e il suono, come è lecito attendersi in questi casi, è estremamente groovy, ma ispirato un po' al materiale che ha raccolto nel corso degli anni, perché sono soprattutto ristampe, l'etichetta tedesca BB Funk, vi abbiamo proposto qualche loro disco in passato. E ok, siamo alla radio, ma dobbiamo parlare anche un po' del video, questa canzone d'amore e di speranza, col titolo che significa con una mano su di te, perché c'è un video importante che è realizzato dal video artist italo-libanese Tania Fegali, che è un tributo alla resistenza femminile e alla lotta per l'autodeterminazione, concentrato su una figura in particolare, che è quella di Naila Yesh, nata a Nablus, protagonista del movimento studentesco e organizzatrice del movimento femminista a Gaza negli anni Ottanta. Quindi andate a recuperare anche il video adesso che avete sentito la canzone. Assolutamente. Noi andiamo con un'altra canzone recente che ha a che fare con quello che sta succedendo a Gaza, con il genocidio che stanno vivendo i palestinesi ormai da 2 anni. Cosmo, brucia tutto. Una palla torrente sta Bibi, e una a tutti gli amici di Bibi. No, non stare attento a ciò che dici, se puoi fare tutto proprio come Bibi. Imperialismo brain rot, bombardato il limite, e se non c'è un limite, non c'è nemmeno per me. Sputa via le tue paure, dai fuoco alle tue parole. Sputa via le tue paure, con il corpo e con la voce, blocca tutto anche le strade, si colpisci più forte che poi, poi, poi. Ho scritto una canzone perché è quello che so fare, presenta così il pezzo Cosmo, l'autore che ci siamo appena, l'artista che ci siamo appena sentiti con questa brucia tutto, è un inno alla lotta, dice, e in questa lotta voglio fare la mia parte, infondere energia, in questo momento lo sento necessario. Banzo, è un brano uscito da pochissimo, il 1 ottobre. Sì, e come dicevo all'inizio, fa parte di questa serie di brani più o meno instant pubblicati per esprimere solidarietà alla causa palestinese, uscito su Bandcamp a sostegno di Medical Aid for Palestinians, MAP, o MAP, e quindi comprate il brano se volete dare un supporto concreto. Vale la pena parlare brevemente del testo che insomma abbiamo già potuto ascoltare, perché è un testo molto forte, però è più ragionato di quello che sembrerebbe, Steven. Eh sì. Perché sì, diciamo una pallottola in testa a Bibi, una pallottola in testa ai suoi amici, e sembra un proclama estremamente barricadero, però la spiegazione di Cosmo è che se il diritto internazionale viene calpestato e un popolo è massacrato senza che nessuno prenda iniziative serie contro il colpevole, succede che non ci sono più limiti e si può dire quello che si preferisce, tanto vale tutto. E effettivamente è una spiegazione, sono parole che a un primo ascolto mi hanno un po' sconcertato, nonostante sì, io sì. Diciamo che non nutra nessuna simpatia per Netanyahu, tutto il contrario, però effettivamente, come dicevo, ho voluto leggere questa spiegazione perché c'è un uso molto cosciente di delle parole che sembrerebbero, diciamo, prettamente di pancia, sì, perché sì. Ma il discorso che non... è certo, no, ma hai ragione, ma hai ragione Cosmo, voglio dire, se non ci sono più linee rosse, se non si può più, cioè se tutto vale, allora voglio dire, provochiamo e diciamo anche delle cose che teoricamente non sarebbero accettabili, e è questo secondo me il messaggio e l'impatto che ha questa canzone, e ha fatto bene a farlo. Sono assolutamente d'accordo con questa logica e questo discorso. Ascolta Banzo, noi siamo a fine trasmissione, per il brano finale che insomma è il nostro ultimo trago, che cerca spesso di recuperare brani italiani cantati e tradotti in altre lingue. Quest'anno andiamo quest'oggi andiamo proprio lontani, quest'anno, sì, per tutto il 2025. Beh sì, andiamo in Giappone, è una cosa curiosa. E quindi cosa abbiamo, una versione in giapponese di un brano italiano? No, è clamoroso, abbiamo un brano italiano cantato da un giapponese in italiano, con sommo sprezzo del pericolo. Lui è Johnson Tsu e la canzone è la celeberrima luglio agosto settembre nero degli Area. Abbiamo trasmesso Iarea non molte puntate fa, credo nella prima, ma Iarea stanno sempre bene e a maggior ragione con la loro canzone più classica, un brano ispirato dai fatti delle Olimpiadi di Monaco del 72, non stiamo a spiegarli troppo perché insomma è abbondantemente storia. E parliamo invece brevemente di Johnson Tsu, che proviene da Osaka, classe 80, attivo dalla fine dei 90 fino al 2018 nella scena psichedelica nipponica, con dei nomi diciamo non di secondo piano, perché è stato membro degli Acid Mother Temple, che hanno suonato praticamente in tutto il mondo in almeno 5 occasioni, grande gruppo di Kawabata Makoto. E però qui si presenta in una veste completamente diversa, per voce e mandolino, quindi molto scarna rispetto all'originale degli Area, e come dicevo la canta in lingua originale, compresa la frase in arabo, e quindi insomma la pronuncia non è, diciamo, perfetta, però apprestiamo molto lo sforzo, coraggio. Sì. E solo una cosa che secondo me è importante, non ricostruiamo la storia della canzone degli Aria, il titolo iniziale provvisorio era Jazz Fedain, ma un tema importante è che questo chiuse in buona misura l'accesso degli Aria alla scena del progressive rock anglosassone all'epoca e fu censurata durante parecchi anni, fino almeno al 77, sulla Rai, insomma, visto che parliamo poi sempre, no, di parallelismi tra passato e presente, libertà d'espressione, censure e così via. Detto ciò, noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo. Banzo, grazie di essere stato con noi, come sempre, e andiamo a ascoltarci questa versione particolare degli Aria che ci arriva dal Giappone, Johnson Tzu, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, primo sindaco dopo la fine del franchismo, alle 17.55, diceva tutti i venerdì. Giorgia, Giorgia, la tua interpretazione del diritto marittimo quando c'erano di mezzo i marò era un po' diversa, se ricordo bene. Eh sì, era molto diversa. Bye bye, ciao a tutti. Fammi che il sole ha ridotto già vecchi. Non è colpa mia se la tua età mi sorrende faccio che c'è l'ometà forse non le saprei ma guarda che modea afferrani sono un vigoro marito gente colorata quasi c'è uguale la mia linea legge sempre incontentiana legge nella feuda tutti i miei adottori che te li amo gente che lo pagano lì quando e quando il mondo senza un ben problema c'è che rende conto le sensarità non ricopo a mia sarà tua realtà mi sono le tue frange che tu rompe da Hato told and humble them. Vislam, Vislam, was a hato for the marriage. Save lavas, save the lamb, save the slah, save the slah, how pile, tile and aish, tile and aish, have you, we king the town's land. Isaac Vani Ali, we king the night, Vislam, Samalali, of the wall, save lavas. Sei la lam, sei la sila. O ta'na ish. Husla, masri. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d Boom,